processore in ARM, come il 450, il padre del 450 hanno lo stesso software, la stessa radio, sono uguali praticamente, non cambia assolutamente niente. È chiaro che fa una bomba, gran bella radio per la M, capito? A me l'850 mi è sempre piaciuto. Io non l'ho mai preso, sai che non andava bene. No, va bene, va bene. Ehi, ne ho avuto due io, uno lavorato l'altro nel Rode. Va molto bene, molto molto bene. Un bello silenzioso, un semidigitale, un po' più, c'è un software un po' più completo rispetto al 450, ed è una grandissima radio, funzionante anche in SSB, in FM, è completa, va bene, va bene, va bene. Avanti a chi tocca, Carlo, a te, avanti. Harry, buonasera. Claudio, entro facendo sempre quattro chiacchiere, c'è Gianni, è entrato Antonio, buonasera Antonio, Natalino, Claudio e Roberto sono andati sul 14, li avrei sentiti, niente, mi passando un po' di ora, prima dell'ora di cena, stasera c'è anche la partita, campionato, l'anticipo Juventus Spezia, vediamo come va a finire. Speriamo bene, se giocano come ha giocato contro la Roma, sicuramente qualcosa si può fare, non importa, non prendono gol. Poi, adesso c'è la Lazio, Napoli-Lazio mi sembra, non so cosa sta facendo, adesso controllo. Va bene, dai, continuate, io sono qua comunque, sto andando col Saturn, già si sente il bippi, ma è tanto giusto per farlo andare, KK, già va bene lo stesso. Avanti Gianni. Stavamo parlando con Claudio, che ho da arrugginito, c'è un allevamento di dog de Bordeaux, già sono un po' convili quei cani. Io già li conosco, ce l'ho anche mio genere. Bellissimi sono. Solo che bisogna avere il posto per quei cani lì, va bene, me la casa tua va bene che c'è il posto a tenere. Lo so, ma io laggiù ma fate da quattro. va bene, tieni quello che c'hai, già va bene, c'è grosso bruisci. Sì, abbastanza, per sempre più nuovo coglione, non su. Filippo, mica c'è una Similiana, mi. E vado a comprare la pettorina per quel cane. La pettorina per quel cane non serve, ci vuole collare a strozzo, gli ho detto, col guinzaglio corto, se no non ti cammina mai a fianco, ti tira, ti sbasisci francarecci. Da piccoli collare a strozzo, da piccoli che si abituano, come sempre, allora rallentano e ti camminano a fianco. Se li metti la pettorina da piccolo è bescio, se non vanno per i cacchi loro, e tu lo sai perché sei amante dei cani e sai qual è il loro comportamento, la corsa. Io queste cose le so per il mio genere, perché lui c'è anche il patentino di addestratore, quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto a Filippo lo vuole, ti cammina a fianco, se lui si sa fare, lo vecchio è un tonto che non ve ne aveva dito. Dai, riprendete che metto a posto qua. KK, avanti Natali. Filippo, mica c'è Massimiliano, mica ti prende a schiaffi alla Brocci. Ma te la segna la Brocci a voi. Ah, via, ti vai. Cazzo, ma te la segna un barco. Bomboli. Riprendi, buona serata, buon tutto, avanti. Buonasera a me. Io so che scende da cosa, da scuola guida. Ma tu stavi guidando la macchina con le bombole, è vero, mi sembra di averti visto guidando. Negativo. Stavo guidando, come si dice, oggi stavo guidando la macchina del coso, come si dice. Stavo guidando la macchina della tua scuola, quando guidano quella macchina lì la guido scarica e ci sono le P attaccate. Ehi, c'avevi la P attaccata infatti, ma non oggi no, mi sembra ieri o avanti ieri ti ho visto, forse avanti ieri. Sì, la strada con la scritta gialla. E la strada è che c'era la P dietro. Mica ce ne sono due, perché io ce li ho magnetiche, una gli sa di voi, non è la mia, che la figlia sta prendendo la patente, non è la mia una, E ho capito, ma forse di tu e la macchina che subirà di lì, io ero dietro, nel Ponte del Rosello si passa. Sì, capo, ma è di sabato però. E non mi lamento, Canzè Candela, mi ridai. Mi ridai da te. Capo, di sabato l'ho presa io. Capito che... Sì, sono passato, ho fatto via Pascoli, Ponte Rosello, sì, già ero io già. Poi sono sceso in Corso Trinità. Ehi, non ti ho suonato, sai che ti distraevo. Capito, però ero dietro. Troppo. Troppo è andato. No, stavo andando piano, stavo andando, tranquillo. No, già non mi distraggo, non ti preoccupare, già. No. Già ando tranquillo. Sì, già ti ho visto che stavi andando piano. Ma quando sei carico con le bombole ci vuole patentino, no? Per portare quei mesili con le bombole. Negativo. Deve superare, ci vuole la DR se superi. Ma noi non superiamo mai. Ah, ho capito, no, pensavo per diciamo per cose infiammabili ci voleva sempre patentina. No, no, ci vuole la patente normale. Se superi però, se superi quei chili, oltre che. Se superi ci vuole la DR. Acciugavito. Avanti Carlo. Ah, ciao Anto, ma ancora lavoro sei oppure sei di rientro a casa? A casa sono, domani c'è tutto il giorno lì. Sento qualcuno sotto, ma devono essere nei canali adiacenti, forse Claudio o Sparviero, stanno facendo prove. Ho capito, Anto, sei a casa. E allora, quando prima dicevi con l'antenna piccola eri in quella di casa che stavi dicendo. Niente, io adesso lo stesso, c'ho qualcosina da fare, per cui mi sa che saluto tutti, se ci siete più tardi, volentieri, ma devo mettere in mano un po' ai fornelli per la cena. Ce la risentiamo tutti quanti, un saluto natalino, Gianni, Antonio, Claudio, Sparviero se mi sta ascoltando, l'altro Claudio Chiodo Arginito è da un'altra parte, me lo salutate, ce la risentiamo, ascolto il finale e poi vado a preparare tutto. Ciao, alle prossime. Ciao Carlo, ciao. Però se ne dovrebbero andare sul 20 a fare le prove, lontano da noi, sul 19, non sul 14, è troppo vicini a noi sono. Io già non li sento, la verità, però secondo che baracchino c'ha uno prende colpi. Manco io li sento. No, io non ho problemi. Io già li sento invece. Vabbè, dipende da che apparato ha uno, capito. E poi se sta parlando Claudio lo senti perché è anche vicino e poi esce forte. È per quello. Vabbè Carlo, ti lascio al tuo da fare. Grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime, dai. Avanti Gianni. Dai, ciao Carlo, prepara roba buona. E buona cena quando la fai, dai, ci sentiamo. Se puoi magari vuoi entrare che ci siamo, siamo qua. Ciao. Bene, arrivo già con la seconda antenna. Nove mi arrivo. Vedi, andare. E la radio è buona. Capo, la Storm, ogni tanto durato Buruvisa. Ecco l'antenna che dovevo attaccarmi e non me l'ho attaccata, che pirla che sono stato. Come seconda già va bene. Vabbè, va non posso va nuda. Ma io ce l'ho da un beccio sul tetto. Lo so, a me come seconda antenna mi serviva, ma vabbè. Andrà bene, se no me ne costruisco una così che magari vada in altri posti. E cercherò di piazzarla. No, io quando è cosa uso questa qua, quando è facile, quando devo usare questo uso, cioè molte volte è la tubica, è stazionaria, cioè è bassissima. Sì, infatti. Vabbè, per ascoltare già c'ho il dipolo. Ciao. non sarà come in Tegida, però è andato. Beh, io non gli arrivi il rocci, non c'è problema. Tu già sta sul pensamento di Viro. Già fa. Adesso devo andare a me senza utilizzarla, è da parecchio tempo. Oh, Carle, non sono io che ti sta aspettando, invece Roberto Quadrato, io sono qua, ecco, facendo un progetto. No, Carlo se n'è andato intanto, che deve fare cosa qua? No, sentiamo, perché dovevano spostarsi ancora di più? Sul 14 è troppo vicino secondo me. Sì, ma allora sì, io non lo sento, Roberto, non sento niente. Assolutamente. E neanche Antonio, neanche Gianni, sentiva solo Carlo, ma forse perché è vicino a Roberto. Sicuramente, ma vabbè, continuate, già sono qua con Cavati, Gianni. E andava, e comunque, cavolo, se ne sono andati là, eravamo tutti qua, cazzo, adesso non sono rientrati, si è portato via a coso Roberto e non so più più radio. Ma è fermo, no, facevo proprio con quella radio, la comparazione, ma ve l'ho già detto, il 950 è superiore per quanto riguarda la banda laterale, ma l'850 modula meglio, capito? Ma io sempre preferisco 430, 140, eccetera, eccetera, la modulazione è più forte. Sì, quella è chiara, ma non ha la potenza di quella RA. Perché non ha il processore, se lui usa l'850 col 60, è come il 430 e il 440, non cambia niente. Così è. Se te lo dico io così sì, non ci sono dubbi, perché io le ho provate tutte, tutti i K, non ci sono K che io non ho provato. Dalla serie vintage all'ultimo arrivato, no, non ce n'è per nessuno. Io l'esperienza non la sono fatta su quella radio. 850 e in AM è una signora radio, come 440, 430, 140. Certo, usato la me con la voce di Ciuio, poi gli altri magari escono un po' più bassi, ma la modulazione è quella, non cambia niente. È come il 450 che c'è a Tino, è uguale come modulazione a quella che aveva prima, non cambia niente. Il 450 che ho semi digitale come l'850 è il gemello, il fratello. Ci ho capito, ma no, pensavo che fossero questi digitali, fossero meno, diciamo, meno affidabili, dai, come in AM, ma se mi dice così, sarà così. Non confondere, non sono digitali, ok, l'850 non è una radio digitale perché non ha il DSP, è una radio semidigitale. Lo Smith, ad esempio, non è come il mio è un DSP, il 920 della IES, è un digitale vero e proprio, perché ha il DSP. E poi lo strumento non è a LED, ma è digitale, capito? Il grafico, è digitale proprio. Mentre l'850 è a LED, come il 950, non c'è un manubrio, sono gemelli. KK, avanti a chi tocca. Io consiglio sempre per la 27, le radio che vanno bene, 440, 430, 140 e 180. Non cambiate mai da quelle posizioni e se ve lo dico io state sereni e tranquilli. Anche il 940 è buono. No, c'è potenza, una 30 avanti, ma non serve a nulla, siamo sempre lì, lascia perdere il 940, capito che analogico già va meglio, ma non fa potenza. La serie 440, 430, 240, quelli lì. Anche l'850 è bella, a me mi è sempre piaciuto, se mi stai dicendo che va bene, può darsi che me lo compro uno. 850 per il lavoro che fai tu quando sarà è ultimo, puoi usare la M, FM e SSB, capito? Capito mi hai? Tutto lì, c'è un bellissimo accordatore, velocissimo, una bella radio, mi l'ho avuta, è una bella radio, comprata nuova, è una bella radio. Poi avevo cambiato, avevo preso l'uscito l'FT 950 della Yaesu e avevo passato quello e avevo preso l'FT 950 e poi avevo preso l'FT 920, insomma, sempre a cambiare, ma comunque già va bene, per la 27 queste sono le migliori. Questa è ingrassato il record per la 27, è migliore di tutti, vero Gianni? Che 10 anni nei veri. 3009 va bene come modulazione. No, andiamo bene. No, questo non so se è andato bene, non so anche tu. Io non metto le cuffie, siamo detto modulato col capo, veramente fortissimo. Sì, è stereofonico, riceve anche ricezione. Se alzi il volume ti fa caduto. Sto dicendo riceve benissimo, lo so, perché io ne ho avuto tanti, quindi lo devo mettere sempre al minimo, perché sennò ti fa calare. Lo so, infatti io ce l'ho al minimo. No, ma anche come trasmettitore, a parte ricevitore, ma anche come trasmettitore è eccezionale. Va veramente molto molto bene, dai. Avanti, alzo le piedi. Che ci andava bene, cazzo? Chi c'ha tu accendi? E passi. E io c'ha tu? Chi c'ha parecchio? Ah, tu? Vabbè. Ma sei senza processore, cosa c'è con Bendy? Stai usando il K? Ehi. E sei senza processore? Io avevo il processore. Vabbè che sono mezzo geggo però. Aspetta un attimo. No, ma tu, c'è qualcosa, ma sta spingendo, lo gioca, fammelo lì. Bravo io. Hola, va bene così? No, la stai spingendo. Andando il processore. Sta andando il processore, ma la sta spingendo. Tocca il microfono sotto. Spingi il tastino, tocca il tastino. Hai toccato qualcosa? No, l'ho abbassato io, perché... Vedi? L'ho abbassato io perché non mi sa bene la brucia. Ah, e allora, perché non stai spingendo, cazzo bello. Importante, chi è che non è uscito? Qua arrivava forte. E figura di oggi. Ero io. E tu? Ehi. E c'avevo un tassino schiacciato. Ah, così è. Vabbè. Comunque, altro lascialo stare così. Con l'altra antenna la spinge molto di più comunque. Adesso non stai spingendo, avanti già. Ehi, infatti, poi c'è tutta brusci, boh, come la fai a fischiare? Ah, beh, da vedere la situazione, no, che... Ah, adesso già sei tu, la mazza! Beh, se te l'ha già detto, devo andare un poco più piano con Ghidda. Adesso sì, stai spingendo una bomba, adesso sì. Adesso sei che vodiano. Poco fa mi sembravi figlio di Don Bacchi. Poco fa ero Trudiano. Poco fa eri figlio di Don Bacchi, nipote di Don Feno. Mi sento anche meglio, sicuramente il segnale è molto più basso, qua è sono basso all'altra. Chi c'ha tanto tu che chiama di minoredesi, non mi chiama di otto. Più minore dai. Vabbè, ma avvisa, mi sennò io mi preoccupo, capito? Faccio una regia che giù tutto in terra. Vabbè. No, andala. Gianni. Ehi, ma piovendo sta ancora, perché devo portare il cane, gai, non mi devo dire, mi sto decidendo ancora. Ma è entrato Filippo, eri fuori a nonno? Ma è entrato, no, non so ancora, ho detto di no. Ma tu stai andando? Sto messo una giacchina perché fuori non sono. Vai allora, dai, vai per prima che più. Hola, guarda a vedere, vedi che più bassa questa. Sì, salti a loro, stai arrivando. Ha detto Filippo che non sta piovendo già. Ehi. Già lo portare là intanto, lo sta portando lì. Sì, ehi, amico, so io, vieni, è tratto adesso, è bello asciutto, vero no? Non ha piovuto, vero? Muove la cosa, vedi, ha detto di no. KK, poi adesso bisogna approfittarne che se lo sta piovendo, se no se piove da poi un casino. Ehi, vabbè, già ha piovuto poco, già va bene. C'è si bagna lì. E allora? Altruista. Altruista si cari voi. Avanti, Natale. E tu mi arrivi otto meno, che? Okay. E chi? Vabbè. scappa. E cosa è? Ma la radio più bassa è? Sì, la girovetta è più bassa, con l'altra spinge molto di più. E il cazzo, da 8 fai a 9.10, con picchi a 9.15. Ah, c'ho bianetta. Guarda a vedere, più alta la radio. Sì, adesso si apparrà di più, ma non tocca di più. Però fischia. Così già va bene, dai. Ah, si attacca così, già va bene. Già, poi tocca trattare l'antenna, perché l'altro l'ho attaccata al televisore. Perché siccome l'antenna nostra sta difettando, qui sto usando la piccola. Ah, già pagato, va bene. Dai, fate girare che mi allontano un secondo, vai Gianni. No, per me la ministra è pronta, vado io lo San Magnano. Beh, tu te la di via, sì. No, sono qua già, un attimo. Sono andato a aiutare Elena che non ce la faceva prendere la testa per mettere il guinzello, gli girava attorno al tavolo, ce la faceva prendere. E Claudio, che fine ha fatto? Bombolino. Cosa già? No, mi sono tanto sto parchiando. Ah, ti tocca anche io già mangiare. Sì, sono già le 8:05, c'ho fame, poi fra un po' c'è anche la partita. Certo, sono a un metro dal microfono, bene mi senti? Benissimo, come forte anche. E vabbè, allora chiudiamo tutti quanti, dammi quello il telegiornale che già posso. Io l'ho portato lì che ero contento che potevo starci più in più. No, io sto apparecchiando, poi sì, anche io mi guardo un telegiornale. E di solito io questo la sarò tutto già. Anche perché il tempo non è che sia delle migliori. E quindi magari poi giro anche lo stacco antenne, stacco anche gli antenne. Sì, non è così, è una pioggia di dita, non è che sia un temporale di chi si ronfi. Vabbè, allora vi saluto, dai, ciao Natalino, ciao Claudio, io faccio QRT per guardare il telegiornale, dai, ci sentiamo alle prossime. Sì, ciao, ciao. Ciao a tutti, ci sentiamo, grazie, ma lo ascolto però, non lo sbaglio. A dopo, ciao, ciao. La Lazio di Sarri per il modo in cui si era messa questa partita. E poi cammino però al 31° minuto grazie a Immobile servito da un preziosismo di Milenkovic e poi nei minuti di recupero il neo entrato Gabbiadini ha avuto la freddezza necessaria. Hola, hola. qualcuno qua? Tornato, ci sei? Non c'è nessuno. Anche a quest'ora, ragazzi. Anche a quest'ora, è chiuso. Chiuso per ferie prolungate. Cazzo, c'avevo il piede messo male dell'antenna. Adesso si è attaccato il wattmetro per il sicuro. Non ti ho capito, Natalia, ha detto che ci ha messo un piede, messo male l'antenna. Il PL, cos'è il PL? Ma su, l'antenna è su. Ehi, quello che va all'apparato, mi. Cazzo, gira in tondo, gira. L'ho tolto e ne ho messo un altro. PL bastardo, no? Di quelli disgraziati. Sì, disgraziato solo. Quindi hanno dovuto togliere l'antenna. No, quello che va all'apparato, non quello che va all'antenna. Quello che va all'apparato era un PL di quelli bastardi, perché non ne avevo. Però mi sono accorto che gira in tondo e l'ho tolto e gliene ho messo un altro. Che era migliore, là, diciamo così, di quelli vecchi. Guarda, quelli vecchi sono più buoni a volte, di quelli basta pulirli bene, eccetera, ma ce ne sono certi che ti girano in tondo, sono tutti messi male, per carità del cielo. Certi che ne ho preso da Fusaro, lo sai cosa succedeva? Ci mettevo le regine 113 dentro, no? Come toccava poco a poco, che avvitavo ne usciva il pezzo di fuori, il puntale con la bacchelite intera, fuori ne usciva dal piede, ma quelli piede sono buoni. Ma non è comprare lì, che c'è zozzeria, cioè mangiando mai, aiuto. Non sento altro che roba, poi costa anche cara, quindi se fa arrivare da fuori, se fanno male li rimetti, rimetti in testa. Io non ne ho più preso, perché non fa neanche per riandarci, è lontano, ti mettono una multa, ma lascia perdere, che non fa, dai. Adesso devo cercare se trovo qui PL Amphenol, quelli con la bacchelite gialla, amici, quelli in bustina, se li trovo a comprarli fuori me li faccio arrivare un po', perché non è ottimo. Infatti l'unica è quella di qualità, sperando che siano originali, perché anche quello si attacca. Speriamo di sì. Quelli che prendevo prima in bustina c'era scritto pure Amphenol sopra il piede. Anche se veramente sono esagerati, ma non esagerati, poco esagerati, da Farnelle costa 11 euro, dall'altro vediamo, questo è un po' più piccolo, forse la versione piccola, 7,50 euro, questo costa 5,15 ancora, più 20 euro di spedizione, ma che sono marchi, no? C'è molta pazzia in giro, Natali, la gente è proprio malata a capo, mi. E infatti, sto per salire a campagna a vedere se ne ho qualcuno piazzato e ne lo tolgo, che erano tutti amperi, non so. Infatti, questo vediamo quanto viene, no? Ma che si può chiamare, Vasco? Lui, un sacco di soldi per niente. Infatti mi sono accorto che non ha fatto rispetto, allora l'ho controllato e girava in tondo la punta proprio, perché il PL era piazzato bene, solo che era la punta del PL dove va all'apparato, che girava in tondo. Dimmi tu del PL. Cosa ti volevo dire? Senti, la pioggia mi sta mi sta bloccando anche la DSL, perché via radio è su 3 GHz, ma quando piove con questa, sta piovendo forte da me, ma proprio forte e ti blocca la DSL addirittura. E beh, normale, è un collegamento via radio da qua. Da qua a parte al ponte radio che c'è ATC. E quindi è chiaro che qualche problema. Guarda, mentre invece Media Globe c'ha l'Ampenol, però è quello bianco in Teflon, 4 euro. È marchiato Ampenol con la sigla e tutto. Vabbè, ma bisogna vedere se sono buoni. Ampenol si spera, c'è tutte le matricole, ma è in Cina, quindi dovunque vai sempre guarda una cosa che non si grida. Cioè, ma io dico, ma mica ne abbiamo noi fabbriche, potrebbero fare una tonnellata di questi affari e non li fanno, perché non c'hanno neanche più gente capace di usare turni o macchine numeriche. C'è una disperazione di gente per le macchine numeriche, guarda, per carità. Infatti, poi adesso se non mettono mano subito all'energia, quando il 26 devono fare subito leggi che buttino le bollette a terra, perché sennò dice che chiudono 120.000 fabbriche, lo so cosa vuol dire, la guerra civile. Ma questo è in tutta Europa, però il punto è da dove ne ritogli tutti questi soldi, perché sono tanti soldi, ma chissà dove va a finire questa cosa. E non tanto bene, no? Mi sa tanto che se non mettono mano subito a quei provvedimenti siamo nei guai forte. C'era una signora l'altro giorno a Rete4 che ha un'azienda, dice non c'ho un euro nel conto corrente, ho pagato tutto in bollette, c'ho 30 operai, se chiudo sono 30 famiglie sullo lastrico, mi ha fatto una pena, guarda. È così Natalia, è così, però soldi, siamo troppo indebitati noi. Abbiamo un debito pubblico enorme, la forza di dare soldi per questo, soldi per quell'altro, e questi vogliono continuare a spendere, però non ce n'è, ho capito, a casa quando è vuota, da dove ti togli i soldi? Boh, è un mistero, perché qua non si parla di togliere fuori 1 milione di euro, qua sono 1 miliardo di euro. Nel casino, guarda, ne ho trovato su Amazon, questi qua mi ricordo che credo che fossero anche buoni, sono quelli marron con la, non so se sia baccarita marron o se sia plastica, comunque c'hanno il riduttore anche, quindi puoi usare per tutte e due 10 euro 6 pizzi. Gira gira mi faccio arrivare un po', perché non ne ho più. Cavolaccio, come cavolo si fa? Bisogna che li faccia arrivare e basta, Gianfranco. Sì, sono, ma loro stanno iniziando i fulmini, prima di no. Hanno 6 a 10 euro e vediamo un po', le recensioni sembrano buone, fanno il loro lavoro anche bene, tutti acquisti verificati, sai, a volte pagare poco non è necessariamente prendere porcherie, poi bisogna vedere, come sempre, provare per credere. Infatti, li devi provare per sapere se sono buoni o no. Adesso l'unico PL bastardo l'avevo piazzato lì, ma te li mangi. Guarda, è così. purtroppo è così. Io avevo presi veramente buoni e a poco prezzo da questi. Vediamo un po' se ne hanno, adesso che lo dico subito, vediamo un po', ma che mi sta buttando a terra proprio di brutto là, ADSL. Un'altra cosa bella, la vuoi sapere? Che la fibra non ce la vogliono mettere qua, dove sono io. Perché la sovrintendenza dice che non si può. Beh, dimmi tu, arriva fino alla chiesa e poi non si può più mettere. C'è il tombino proprio. Beh, quando mai non c'è modo di farla passare. Minchia. Ma è proprio crollata. 0,14. Come faccio? Aspetta un attimo, dai, che provo a fare una riconnessione, se mi riconnette, perché questa pioggia mi sta incasinando tutto. Mi cazzo. Sta piovendo veramente forte. Vediamo un po' se mi dà qualcosa in più, se no. Pazienza. Che già fa. Poi. Sono sganciata. Troppa acqua. Natalino. Siamo qua. Ebbene, riuscito ci sei. Stavo guardando questi PL qua, a vedere. Ma che sta piovendo talmente forte che deve avere fatto danno al ripetitore. Chissà che cosa è strano, adesso si è aperta pure la preparazione, ma dimmi tu. Il tempo, è cosa vuoi dire, purtroppo. Ma anche lui ha... E questo è in banda laterale, sta arrivando forte. Stavo guardando dove avevo preso una volta che erano veramente ultimi, pari agli Ampenon. Da radio sul plus, bacchilite, sto guardando se ci sono, perché quando ci sono vanno sempre a rubare. Comunque lo controllo, il radio sul plus, c'hanno questi sì, in bacchilite, però sono quelli grandi, cioè per RG8 213, 1,50 l'uno. Ne ho visto un paio per G8, 1,62. Ma tu devi guardare la qualità, capito? Perché quelli che avevo preso qua erano veramente eccezionali, pari agli Ampenol, proprio perfetti, chiudendo, avvistando. Poi, boh, anche a fortuna, c'hanno di tutti i tipi, anche quel partial flex. E vabbè, vediamo un po' come la situazione se si è ripresa. Ma che... Boh. Ma che lì c'è l'isolamento, Va bene, Natali, dai, adesso chiudo perché mi sto tutto bagnando, quindi spengo e me ne vado a letto. Ok, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. E studia. E te credo. Alle prossime, da. Buona serata. Sì, sto andando a curicarmi anch'io. Ci sentiamo alle prossime. Ma prima le sta costare l'antenna, non si sa mai. Ho messo temporale, ovvero. Vabbè. Ciao Natali. Ciao, Gianfranco.